Radio 24 Reportage. Il ghetto di Roma e la minaccia jihadista di Andrea Viali. Ci sono anche i fotomontaggi del Colosseo e dell'obelisco di Piazza San Pietro sormontati dalla bandiera nera del Califfato nelle ultime farneticanti minacce contro l'Occidente diffuse sul web dagli integralisti islamici. Il Vaticano rientra ormai da tempo nella lista dei cosiddetti obiettivi sensibili, ma negli ultimi giorni a fare i conti con il nuovo allarme legato al terrorismo jihadista a Roma è anche il ghetto ebraico, uno dei più antichi al mondo. Le misure di sicurezza già alte attorno alla sinagoga sono state ulteriormente rafforzate dopo gli attentati di Parigi. Anche se preoccupati, gli abitanti del ghetto cercano comunque di vivere una vita normale, spiega Fabio Perugia, portavoce della comunità ebraica romana. Sicuramente la viviamo con apprensione da cittadini europei, perché quello che è successo a Parigi tocca gli ebrei nel supermercato, i poliziotti per strada, i giornalisti dentro la redazione, ma prima di tutto tocca a tutti i cittadini europei. Dobbiamo sempre ricordarci che quando l'imam dell'ISIS dall'altra parte del mondo indicano Roma come uno degli obiettivi da conquistare, i primi che si devono mettere in allerta sono i fedeli della Chiesa Cattolica. Se indicano Roma non è di certo per venirsi a fare una passeggiata al Colosseo, ma indicano San Pietro come obiettivo. Chiaro è che anche gli obiettivi della comunità ebraica sono obiettivi sensibili. Qui al ghetto come si vive questa situazione? Ovviamente c'è un'attenzione maggiore da parte dei carabinieri. Gli ebrei romani vivono tranquillamente questa situazione, nel senso che continuano la loro vita. Abbiamo riempito il tempio mentre a Parigi purtroppo lo avevano chiuso per celebrare l'anniversario delle nozze di Sami Modiano, ex deportato ai campi di sterminio, e sua moglie Selma. Quindi noi rispondiamo con la vita e con continuare a fare le stesse cose che facevamo il giorno prima. Un episodio di incredibile viltà, la più grave manifestazione di antisemitismo mai accaduta in Italia. Oggi a Roma è stato sparso del sangue innocente. Un bimbo di 2 anni ucciso, molti feriti, alcuni dei quali in gravissime condizioni. Un feroce attentato che ha suscitato emozione e sdegno. Shema Israel! Il ghetto di Roma conosce bene il terrorismo. Il 9 ottobre 1982 il TG1 dava così la notizia dell'attentato contro la sinagoga. Era un sabato mattina quando un comando di palestinesi attaccò con mitra e bombe a mano i fedeli che stavano uscendo dal tempio. Morì un bambino di 2 anni e altre 37 persone rimasero ferite. Il ricordo di quel giorno è ancora vivo, racconta Elvira Di Cave, assessore alla memoria della comunità ebraica romana. Nell'82 ci fu questo attentato abbastanza sanguinoso in quell'angolo là della sinagoga, che è dedicato, questo è l'argo Stefano Gaitasche, questo bambino di 2 anni, una ferita che non si riesce a suturare e che ritrova adesso di nuovo così delle assonanze simili, no? E poi ogni tanto qualcuno si domanda perché questo accade e perché solo a noi, o meglio, perché a noi. Il popolo ebraico italiano che cosa ha fatto? Ma oggi la vostra comunità come sta vivendo questo nuovo allarme terrorismo? Indubitabilmente è inutile che continuiamo a pensare di non avere timore, ma non abbiamo paura, perché la paura per un ebreo è una cosa, è un lusso, non ce lo possiamo permettere. Da 70 anni a questa parte è una cosa che non ci è consentita. Noi dobbiamo andare avanti normalmente, l'antisemitismo c'è sempre stato. Ora è mascherato da antisionismo ed è una cosa abbastanza complessa, diciamo, ma secondo me tutti siamo in crisi e siamo sotto assedio, non soltanto noi, lo sono i cattolici, lo sono i musulmani moderati. Non credo che il problema sia soltanto ebraico, credo piuttosto invece che la situazione in Francia, che è scaturita in Francia, sia stato un atto di estrema leggerezza, superficialità da parte dei francesi, che mai pensavano che la cosa potesse degenerare in questo modo. E invece in realtà questo è accaduto. I segnali c'erano, Questi segnali non sono stati valutati interamente. Questo è il grande peccato che ha fatto la Francia. Poi per il resto la reazione spontanea è stata una cosa fantastica, insomma. Secondo lei ci sono differenze tra la situazione in Francia e quella in Italia? Io non credo che ci siano grandi differenze tra l'Italia e la Francia, perché in realtà un perché politico in realtà non c'è, non ha un senso, no? E così come non in Inghilterra, come non sarebbe in Italia, come non sarebbe per esempio mai nella stessa Europa, come se questa cosa accadesse per esempio in Germania, con tutti i turchi che ci sono, no? Con il popolo sommerso dei turchi, eccetera. Cioè, questo è un problema globale, un problema che interessa a tutti quanti. L'unica cosa importante in questo momento da valutare è che secondo me il popolo islamico, il popolo musulmano è diviso. Questo, e i fondamentalisti in realtà stanno creando questo grande problema. Fino a dove arriveranno? Noi viviamo come se fosse l'ultimo giorno, come vivono gli israeliani. Questo ci consente di vivere bene, con timore, con attenzione, ma senza paura. Loro malgrado, gli ebrei romani, specie quelli che vivono nel ghetto, si sono adattati quindi a convivere con il rischio di attentati, una situazione comunque difficile da accettare, ci raccontano alcuni di loro. Grazie a Dio abbiamo un governo che pensiamo che ancora ci tutela, sono anni che stanno a fianco nostro, grazie a Dio ci sentiamo protetti, molto protetti da quello che sono le forze dell'ordine. Però sai, vivere in un contesto così non è piacevole. Però in un certo senso vi siete anche abituati a questa cosa, voi mi stavi dicendo. Ci siamo abituati perché ci siamo cresciuti in questo contesto. Però ti dico, da genitore, vedere mia figlia che entra a scuola protetta da polizia armata, agenti armati, giubbetti antiproiettili, francamente anche mia figlia che ha 10 anni già ci si è abituata. Ci si è abituata, ma per quale motivo ci si deve abituare? Ti sembra giusto? Qual è la colpa di mia figlia? Qual è la colpa di essere ebrea? Di professare una religione? Cioè qual è la colpa sua? In Francia negli ultimi 6 mesi la comunità ebraica francese avrà subito, penso, dai 30 ai 40 attacchi, da pestaggi di persone, attacchi alle sinagoghe. Ma si è sentito parlare in questi mesi? Quante persone vanno in Israele? Si sono trasferite in Israele dalla Francia? Il 60% della comunità francese. Ma qui a Roma è cambiato qualcosa in questi giorni? Ma qua a livello di sicurezza c'è sempre stata la massima sicurezza, perché qua è un obiettivo particolare. Ti ripeto, ci stava un vecchio signore che durante tanti anni fa, durante un'intervista, disse a un giornalista: come adesso tu mi stai intervistando a me? Cos'è che cosa gli rispose? La colpa è sempre degli ebrei e dei ciclisti. Il giornalista dall'altra parte gli disse: ma scusi, ma perché dei ciclisti? E quello gli disse: ma perché degli ebrei? La paura al ghetto si esorcizza anche con una risata, ma al portico d'Ottavia, il cuore del quartiere ebraico, c'è anche chi ne ha vissute talmente tante nella sua vita da non dare peso a quanto sta accadendo in questi giorni. È il caso di Amitai David Sermoneta, un rabbino israeliano, figlio di genitori romani. Ti dico la verità, io vengo da Gerusalemme, vengo da Israele, che c'erano 10 anni fa, 12 anni fa, attentati che ogni settimana un autobus o uno o due era scoppiato e la gente viveva molto normale perché non c'era un'altra possibilità. Io sono tranquillo perché qui, quanto che noi ci sono più o meno attentati in Francia, e niente confronto Israele. E se in Israele noi come cittadini abbiamo continuato la vita normale, anche adesso siamo normali. E se vogliamo fare vincere i terroristi dobbiamo dimostrargli paura. Questo vogliono i terroristi, solo farci paura. E questa, quando noi ci dimostriamo la paura, allora loro si dicono: ah, hai visto? Questo volevamo. Allora noi non ci abbiamo paura, la vita è normale, visto che grazie a Dio non c'è niente. Io ti dico, da un posto che sono vissuto tanti attentati, non ho uno. E il resto della comunità la pensa come lei?